La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Così? Hai detto che questa è tutta cantata? Allora chissà se capirò proprio tutto. Capirai, credi a me, capirai. La musica è molto eloquente. Piaciuta, sì, l'opera, cara. Oh, mi si sono aggrovigliate le budella. Cosa? Ha detto che le è piaciuta tanto perché era molto bella. Ah. Un'emozione che fa aggrovigliare le budella. Forse non è proprio l'espressione che molti di noi vorrebbero usare, ma in fondo rende alla perfezione ciò che una rappresentazione lirica può provocare. Roberto Frontali, il baritono romano che si esibisce nei più grandi teatri al mondo, era un bambino quando ha provato quell'emozione. Ed è in quell'emozione che bisogna cercare la prima volta di quest'artista. Diciamo, la vita non è fatta di... non è univoca, insomma, non è una linea retta. Per cui prima di avvicinarsi all'obiettivo, se poi c'è qualche volta anche casuale, insomma. La mia storia, diciamo, io sono sempre stato appassionato di musica e specialmente di canto fin da bambino, però diciamo la svolta vera e propria poi è avvenuta all'università, dove c'era un coro che faceva musica polifonica e io, pur frequentando i corsi di economia e commercio, ho cominciato a frequentare questo coro, mi sono appassionato e poi mi sono iscritto al conservatorio a Roma. E per un periodo ho fatto tutte e due, insomma, ho fatto l'università e ho fatto il conservatorio con grandi sacrifici, anche lavorando per mantenere gli studi. E poi a un certo momento, una volta presa la laurea e una volta avviato anche verso la possibilità di fare il solista come cantante, e ho dovuto, insomma, fare una scelta. Che però è stata anche facilitata dal fatto che ho cominciato subito a vincere dei concorsi di canto e ho iniziato praticamente quasi subito debuttando all'Opera di Roma nell'86 e per cui da lì poi sono partito come cantante solista, ecco. E da qui poi una carriera incredibile con un'acclamazione internazionale, con... Sì, da lì è partita la prima. Ho frequentato alcuni teatri italiani, poi dal 90, diciamo 92, è iniziata la carriera internazionale. Ho debuttato alla Scala, al Metropolitan di New York, al Covent Garden, a Parigi, Vienna, insomma tutti i maggiori teatri del mondo. L'opera, intercettata quasi per caso, era di fatto diventata il sogno della vita di Roberto Frontali. Quando lei ha deciso di definitivamente prendere la strada della lirica, a casa come l'hanno presa? Beh, a casa non mi hanno ostacolato, però erano un po' scettici, insomma. D'altronde ero avviato verso una carriera bancaria, invece mi sono ritrovato a fare il cantante. Però poi devo dire che... loro sono i miei primi tifosi, ecco. Roberto Frontali è un ragazzino romano con buoni voti a scuola. Quando ha del tempo libero canta, ma nessuno sembra dare molta attenzione alla cosa. È un passatempo, una storia che si esaurirà in breve, un fuoco fragile. Invece la fiamma è accesa e il ragazzo non molla. Così, tra sacrifici e soddisfazioni, arriva la sua prima volta. È il 1992. Roberto Frontali canta al Metropolitan di New York. È un colore forte, un'emozione grande. In prima fila, anche simbolicamente ad assistere al debutto di questo sogno, c'è tutto un passato che Frontali si porta sempre dietro. C'è la famiglia, c'è l'odore di certe sere romane, la fatica di certe albe. Insomma, al Metropolitan di New York c'è Roberto Frontali, il ragazzo destinato a lavorare in banca e che da quel giorno sarà una stella internazionale dell'opera lirica. Se sai da dove parti, non sbaglierai mai strada, diceva più o meno così una frase di Esquivel, premio Nobel per la pace. E anche Frontali non dimentica mai da dove è partito e per questo, ogni volta che può, si dedica agli altri. Tra pochi giorni, sabato 27 ottobre, nell'Aula Magna della Statale di Milano, Frontali canterà per un gruppo di bambine dello Zambia. Sì, mi piace chiaramente poter partecipare a questi eventi. Diciamo questo progetto serve per fare delle opere di ristrutturazione per una casa di accoglienza per delle bambine nel Nord Zambia. E mi piace sottolineare il fatto che questo progetto è nato nel 2006 e io già nel 2006 ho fatto un primo concerto per la PAMO, per questa Ollus, che di cui conosco personalmente tutti e so che tutto il ricavato del concerto andrà sicuramente direttamente a finanziarlo, senza disperdersi come spesso succede con le grandi Ollus, che non si sa dove finiscono i soldi perché ci sono grandi apparati burocratici da gestire, mentre qui le persone sono coinvolte direttamente e hanno una enorme partecipazione in questo progetto. Per cui ogni volta che loro mi chiedono di poter usufruire della mia arte e metterla a disposizione per fare delle cose, io sono sempre disponibile. Senta, e si può dire che questa è l'altra parte, diciamo, della sua vita, che se si potesse, adesso io non so se è corretto, comunque questa generosità che la contraddistingue, di lei mi hanno parlato sempre molto bene, non solo come artista ma come persona, è forse il centro del suo equilibrio e del suo successo come artista? Beh, io penso che noi siamo fatti di energia, per cui se riusciamo a canalizzare tutta la nostra energia positiva e raccoglierla intorno a noi e anche distribuirla agli altri, questo è fondamentale, specialmente per chi lavora in teatro, dove l'energia è importantissima e si riesce a creare uno spettacolo stupendo quando tutte le energie del teatro vengono canalizzate per il progetto finale dell'opera. E così anche questo è valido per la vita, io credo. E più via lieta d'un sol fiore la mia. Questo è un estratto de Il barbiere di Siviglia, andato in scena nel 99 al Teatro Lirico di Cagliari. Il baritono che sentite è Roberto Frontali. Frontali è già allora un cantante di fama internazionale. Si è esibito al Metropolitan e in tanti altri teatri del mondo. È molto amato in America ma anche in Giappone, come del resto il repertorio verdiano in cui Frontali è specializzato. Un patrimonio, quello verdiano, che l'Italia sta trascurando in maniera impressionante. Perdere un patrimonio così centrale per tutti noi. E che cosa significa in realtà la lirica? Quanto segna il nostro equilibrio e la nostra storia di italiani? Paola Bonora è una musicista, suona il flauto traverso e si è specializzata in musica barocca. Suona con Frontali, è un'artista di grande talento e di profonda sensibilità. È lei che quasi a sua insaputa scrive un piccolo ed emozionante testamento per la lirica. Il tutto avviene in un pigro pomeriggio di ottobre, quando Paola Bonora, rispondendo a una mia mail, scrive così. Mi immagino un ipotetico interlocutore che mi chiede: Paola, perché la lirica è importante? A parte quel discorso che ti dicevo ieri, che noi abbiamo la lirica nel DNA, l'abbiamo inventata noi, come abbiamo nel DNA Piero della Francesca, Dante, Botticelli, Michelangelo, la gente comune ha dentro tutto ciò in un modo inespresso, come un potenziale, esattamente come il DNA. Ora, la risposta a quella domanda, perché è importante la lirica e l'arte in generale, io penso che la bellezza nel suo senso più profondo sia qualcosa che cura la nostra anima. Il bello non è superficiale, il bello scaturito dalla poesia, dall'arte, ci dà una forza enorme, ci rende delle persone migliori, ci dà la possibilità di affrontare le nostre vite umane in un modo più forte, più interessante. Ci ammaliamo di meno e abbiamo uno sguardo con una capienza emotiva più grande. Ci dà degli strumenti insostituibili. In Oriente questo lo sanno benissimo, come in Giappone, per esempio, dove il culto dell'estetica è quasi una religione. Loro ci vogliono là, investono nella cultura e nella nostra in particolare. Mentre hanno il loro paese a pezzi, hanno bisogno di Verdi e di Bellini, perché ciò gli dà la forza di affrontare la loro tragedia. Per concludere voglio dire questo. L'opera lirica l'abbiamo inventata noi in Toscana alla fine del Cinquecento. Si chiamava il recitar cantando. Pensa che bello, che idea incredibile. Un gruppo di poeti e musicisti fiorentini a ridosso del Seicento inventarono un mondo dove la musica e i suoni fossero al servizio della parola, onorando il suo significato. Il suono avvolgeva la parola aggiungendo una dimensione espressiva inimmaginabile. La parola diventava incredibilmente potente. In questo momento storico, dove la parola si è completamente svuotata, non ha più carne, ecco che la lirica le ridà dignità e corpo. Il problema è che la percentuale di italiani che ha assistito almeno una volta dal vivo a uno spettacolo d'opera lirica è così esiguo da far davvero impressione. Perché? Perché la musica lirica, l'opera che proprio noi italiani abbiamo inventato, è diventato un momento per pochi? Se andate a guardare il calendario della stagione 2012-2013 del Metropolitan Opera di New York, scoprirete la prepotente presenza di artisti italiani, tutta gente che in Italia vive, ma che per esibirsi preferisce la scena internazionale, se non altro perché fuori esistono calendari fitti, teatri gremiti e appassionati. ed è lì che si esibisce Roberto Frontali, uno dei baritoni più importanti a livello internazionale. Ho frequentato alcuni teatri italiani, poi dal 92 è iniziata la carriera internazionale, ho debuttato alla Scala, al Metropolitan di New York, al Covent Garden, a Parigi, Vienna, insomma tutti i maggiori teatri del mondo. Questa è la prima volta di un baritono che in poco tempo è diventato un artista di fama mondiale, un ragazzo destinato a lavorare in banca e che fino alla fine sembrava indeciso sul da farsi. Questa è la prima volta di un sogno che si è imposto superando ogni ostacolo. La puntata è finita. Vi ringrazio per l'attenzione. Scriveteci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Se volete ci potete riascoltare andando sul sito di Radio 24 e cercando la nostra pagina. Un saluto da Cristina Carpinelli. A domenica prossima, sempre attorno alle 13. Sete di vita che prende la mano, avremo tavoli pieni di persone contente e fuori dei motori pieni di benzina, è l'occasione di solitudine porta così lontano. Com'è difficile dire tutto quello che sento, tutte le piccole e grandi verità ed ogni movimento che mi cambierà, e camminare così nell'infinito che ho dentro, che si modifica e cerca libertà e chiede di capire quello che sarà. Se parli piano puoi sentirlo già, ascolta l'infinito. Ci accarezzerà.